Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Oggi torniamo su un tema che abbiamo trattato da poco, solo una settimana fa, ma che già merita una nuova puntata con approfondimenti e aggiornamenti. Ci riferiamo cioè alla tracciabilità e alle misure anti-evasione che hanno fissato a 1000 euro il tetto massimo per le transazioni in contanti. Sembra infatti, e ormai cosa certa, che il governo alzerà, fra le correzioni appunto alla manovra, il limite fissato a 500 euro per i pagamenti in contanti da parte della pubblica amministrazione, almeno per quanto riguarda le pensioni. Dovrebbero infatti arrivare a circa 1000 euro, 980 per la precisione, al netto dell'imposta di bollo. Una correzione che sembrava sin dall'inizio abbastanza inevitabile e che è arrivata dopo la grande discussione che è nata a seguito dell'introduzione rapidissima delle nuove soglie per i pagamenti in contanti, che tuttora vedono il tetto a 500 appunto per questi pagamenti, rendendo in molti casi, pensiamo agli anziani e ai tanti soggetti non bancarizzati, l'obbligatoria apertura di un conto corrente e l'approccio a strumenti di pagamento elettronico con cui molti italiani non hanno, sia per, come dire, anche come scelte personali, alcuna familiarità. E oltre a questo punto sono molti gli aspetti su cui ritornare e fare un po' di chiarezza. In primo luogo il momento a partire dal quale le nuove norme si applicano, perché le nuove misure anti-evasione sono scattate dalla mezzanotte di martedì scorso, dal 6 dicembre, non partiranno dal 1 gennaio come nel primo momento era sembrato, e questo quindi implica ritornare appunto a richiarirvi un po' la necessità appunto di richiarirvi un po' la questione. È anche importante capire quando l'utilizzo di più di 1000 euro in contanti diventa irregolare e quando invece non lo è. Pertanto oggi ritorneremo a fare un quadro preciso, a rispondere alle vostre domande e alle testimonianze su quanto può esservi già capitato in questi giorni, se vi siete fatti una domanda, naturalmente se avevate la necessità di fare una transazione commerciale o di qualunque tipo che oscillava intorno a questa cifra, come vi siete comportati appunto. Chiaramente speriamo che non abbiate tentato di aggirare le normative anti-evasione. Nicola Forte, consulente tributario in Roma ed esperto per il Sole 24 Ore su queste tematiche. Dottor Forte, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oggi la lascio da sola, da solo, completamente in balia dei nostri ascoltatori, per cui sarà un po' impegnativa questa puntata naturalmente. E adesso, a parte gli scherzi, speriamo di no, speriamo appunto di spiegarvi in termini semplici, senza preoccupare nessuno, che cosa sta cambiando. Sulla questione dei pensionati, peraltro, questa mattina, molto presto, abbiamo interpellato anche il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, poi vi farò sentire appunto che cosa ci ha detto. Peraltro oggi è una giornata in cui a Roma viene presentato anche il bilancio sociale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e poco fa sono stati divulgati appunto alcuni dati. La spesa pensionistica complessiva nel 2010 è salita ad oltre 191 miliardi di euro dai 186 dell'anno precedente, e poi è stato divulgato anche il dato sul reddito pensionistico medio mensile per pensionato, che è di 1.084 euro al mese. Gli uomini percepiscono 1.312 euro mensili, le donne 893. Pertanto le donne probabilmente saranno, come dire, escluse dalle novità anti-evasione che stanno arrivando, mentre gli uomini no. Possiamo fare anche questo commento un po' folcloristico, poi lo commenteremo anche con Nicola Forte, questo gruppo di dati che l'INPS ha diramato questa mattina. Comunque quello che ci interessa oggi è chiarire invece come bisogna comportarsi per rispettare le nuove normative anti-evasione, che in realtà sono una modifica rispetto alle normative anti-riciclaggio che il nostro ordinamento, il nostro sistema conosceva già. Semplicemente le maglie si sono strette ulteriormente. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande e per intervenire in diretta. Se ci volete scrivere potete farlo al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Come sapete siamo su Facebook da qualche tempo anche noi. Potete collegarvi anche sul vostro social network preferito, perché ormai lo è praticamente di tutti gli italiani, salvadanaio-radio24, e quindi anche lì aderire con un mi piace al nostro programma ed interagire anche attraverso il social network appunto con i vostri commenti sui temi più che affrontiamo appunto in questo periodo. Allora, un'occhiata alla borsa molto veloce, perché stamattina ci interessava monitorarla. Dopo i forti rinnovati cali di ieri, oggi c'è un parziale recupero di terreno. 1 per i listini, più 0,36%. A Parigi, Francoforte un po' meglio, qui è stato divulgato lo ZEB, l'indice di fiducia tedesco, che è stato migliore delle attese, questo incoraggia gli acquisti sulla piazza tedesca. Londra più 0,67%, Milano più 1,37%. Sul FTSE MIB Milano ieri protagonista, ovviamente, come al solito, del calo un po' più marcato, oggi invece mette a segno il recupero più vistoso delle altre piazze. Diasorin più 3,54, tra i migliori titoli. Prismian più 3,45, Mediobanca più 3,21, Mediolanum più 2,93, Intesa più 2,91, Mediaset più 2,82, Tenaris, Exor in rialzo di 2,5 punti, mentre in negativo abbiamo UbiBanca che perde 2 punti, Lottomatica meno 0,98 e nel meno 0,26. L'euro sul dollaro è a 1,3227, lo spread si è ridimensionato dopo una partenza a razzo stamattina che l'aveva visto proiettarsi sui 470 punti base. Poi il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani decennali e quelli tedeschi si è riportato sui 450-55 punti base. Stamattina c'è stata anche un'asta piuttosto corposa, insomma media, per la Spagna, che ha emesso buoni del tesoro per quasi 5 miliardi di euro. I tassi di interesse sono risultati in calo sia per i buoni a 12 mesi che per quelli a 18 mesi, e speriamo che anche questo sia un segnale che il mercato interpreti bene. Lasciamo però la borsa, andiamo subito al tema di stamattina, perché già vedo molti ascoltatori che sono pronti con le loro domande concrete, appunto, e i loro casi, per capirne qualcosa di più. Dottor Forte, allora, da martedì scorso, 6 dicembre, e lo rimarchiamo in maniera molto forte, questa data, le nuove limitazioni all'uso del contante per quanto riguarda le transazioni in contanti, assegni bancari e postali al portatore, assegni circolari al portatore e vaglie, appunto, le nuove limitazioni appunto sono in vigore da martedì scorso. Come mai si era generato l'equivoco inizialmente, secondo il quale in realtà le nuove disposizioni sarebbero entrate in vigore a partire da gennaio? Ma probabilmente per due motivi, sia perché molte disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Monti hanno un'efficacia dal 1 gennaio 2012, e posso anche immaginare perché in precedenti occasioni, quando la soglia e il limite era stato abbassato, ad esempio ad agosto durante la manovra di Ferragosto, quando il limite è sceso a 2.500 euro, in quell'occasione si era previsto un periodo, chiamiamolo transitorio, di una quindicina di giorni, periodo durante il quale se avessi superato la soglia non erano applicabili le infrazioni, un periodo, diciamo, pensato all'epoca più che altro per favorire sostanzialmente la conoscenza di questa disposizione, che anche in considerazione del periodo tra virgolette particolare estivo rendeva difficile appunto la concreta ed immediata attuazione. Questa norma però non è stata riproposta appunto nel decreto 201, nel decreto Monti, anzi sarebbe auspicabile, proprio perché non vi è stata un'immediata informazione sulla entrata in vigore dal 6 dicembre, che in fase di conversione, ecco, da questo punto di vista penso che ove in fase di conversione si intervenisse con una disposizione di questo genere non ci sarebbero certo problemi sui saldi della manovra, si introducesse questa previsione, cioè che gli eventuali pagamenti oltre soglia nel periodo dal 6 dicembre magari al 31 dicembre non dovrebbero risultare appunto sanzionati. Scorretti, sanzionati, certo. È un auspicio. Peraltro in realtà qualche strumento ha la opportunità di adeguarsi entro il 31 dicembre 2011, perché per esempio i libretti di deposito al portatore che avevano già subito una riduzione di soglia tollerabile adesso devono essere appunto ricondotti, il saldo deve essere ricondotto al di sotto dei 1.000 euro, però ecco, per questi libretti per esempio c'è tempo fino al 31 dicembre, Forte. Sì, questo lo prevede espressamente la norma, come lo si prevede in passato, cioè mi viene concesso un congruo, un periodo di tempo durante il quale io posso materialmente o estinguere il libretto, prelevare la somma o prelevare una somma fino a ricondurre l'importo giacente sul libretto entro la soglia, quindi a 999,99 euro. E i giorni scorsi peraltro il Sole 24 Ore ha pubblicato uno specchietto molto chiaro in cui vengono indicati tutti quei casi in cui si viola la legge, tutti quei casi invece in cui il comportamento è consentito. C'è c'era un altro articolo di un collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Nicola Borsi, che lo intitolava proprio nel numero uscito sabato scorso, Libretti al portatore sotto 1000 euro, in cui si esplicita invece la situazione degli assegni bancari e postali. Chiaramente quelli emessi dal 6 dicembre in avanti per importi pari o superiori ai 1000 euro si devono indicare nome e ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità. Ma, dottor Forte, c'è un po' forse di chiarimento da fare: se un assegno è stato emesso prima ma non è stato incassato, è vero che non si può più incassare in questo momento, evidentemente? No? Assolutamente, cioè, nel senso che l'assegno è regolare, perché nel momento in cui l'assegno, iniziamo quindi a sgombrare il campo di equivoci circa la regolarità del comportamento. Quando io ho tratto l'assegno, nel senso che l'ho materialmente staccato dal mio carnet, ho indicato il beneficiario, è indicata la data e l'ho sottoscritto e l'ho consegnato, quindi prima dell'entrata in vigore della riduzione della soglia, quindi sostanzialmente se ci fossero, diciamo, 1400 euro riportati datato assegno 5 dicembre, l'assegno quando l'ho messo è assolutamente, quando l'ho tratto, assolutamente regolare, ho rispettato il limite, io che ne sono il beneficiario posso recarmi in banca, versarlo sul mio conto corrente e ovviamente la banca, prendendo atto della data di emissione ante 6 dicembre, non potrà che constatare l'assoluta regolarità del comportamento, la soglia all'epoca vigente ovviamente è stata rispettata e quindi la banca non dovrà effettuare alcuna segnalazione dell'infrazione, perché l'infrazione non è commessa. Benissimo, poi andiamo a chiarire anche alcuni aspetti legati all'infrazione, perché forse le misure di Monti non sono completamente chiare rispetto a ciò a cui si va incontro se naturalmente la legge non si rispetta relativamente a queste nuove disposizioni. Però adesso ci dobbiamo già fermare, ci sono tanti ascoltatori pronti all'attesa, poi nella seconda parte sentiremo relativamente al pagamento delle pensioni cosa ci ha detto il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. 800 24 00 24, il numero verde che vi permette di chiamarci, interagire in diretta con noi. Ci sentiamo tra pochissimo. Salva Danaio. Io è ritornato su un tema che è necessario seguire passo passo, perché ha generato molti timori, molta confusione fra tutte le famiglie che ci ascoltano, fra ovviamente tutti i cittadini, perché ovviamente tutti quanti utilizziamo delle contante, ma adesso dal 6 dicembre con il decreto Monti, appunto con le nuove misure contenute nella super manovra varata per cominciare a sistemare i conti pubblici, sono in vigore delle nuove limitazioni all'uso del contante, quindi è stata rivisitata di nuovo la normativa antiriciclaggio già in vigore, con un abbattimento ulteriore delle soglie che erano già state rivisitate al ribasso la scorsa estate. Quindi questo significa che le transazioni in contanti di valore superiore a 999,99 euro adesso non sono più possibili. Detto così, appunto, sembra tutto molto semplice, pensate invece che impatto enorme c'è su tanti aspetti. Adesso cominceremo subito a sentire i nostri ascoltatori, ma un'altra questione che aveva generato molta paura soprattutto nei pensionati era stata l'individuazione di questa soglia di 500 euro oltre la quale appunto la pubblica amministrazione non avrebbe più potuto effettuare i suoi pagamenti, quindi le pensioni in primo luogo. E adesso questa soglia potrebbe essere modificata, aumentata a 980 euro. Detto questo, questa discussione che è ancora in corso, anche se c'è questo emendamento appunto alla manovra Monti che sarebbe già stato accolto dal governo, ha generato, come vi dicevo, molta confusione. Questa mattina ne abbiamo approfittato per fare una discussione su questo argomento con il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, al quale in primo luogo abbiamo chiesto quante sono attualmente le pensioni ritirate in contanti dagli italiani. Il presidente ci ha fornito i dati degli ultimi anni, spiegandoci anche come l'INPS si stesse già muovendo per incentivare l'utilizzo di strumenti alternativi. Sentiamolo. Attualmente sono ritirate in contanti 2 milioni e 200 mila circa, un anno fa erano 3 milioni e mezzo, perché noi già l'anno scorso, io personalmente, abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione sull'abbandono del contante e devo dire che abbiamo avuto una risposta molto forte, e quindi sono già diminuiti di circa 1 milione e 300 mila, ne rimangono ancora 2 milioni e 2. Su che tasto avete puntato? Quello della sicurezza, se non sbaglio? Sicuramente il tasto più importante è quello della sicurezza, ma anche quello della semplicità, della elasticità. Ovviamente la sicurezza, noi abbiamo dei dati che ancora oggi ci sono parecchi furti fuori dagli uffici postali, anche perché i 2 milioni e 2 sono per il 95,96% presso gli uffici postali, quindi ecco, parliamo di ritiri contanti presso ovviamente le poste. Secondo anche la semplicità, perché indubbiamente se uno apre un libretto poi ci sono dei servizi connessi, si può fare la carta, ecco, tutte cose che evitano di avere i soldi in contanti, attraversare la strada, andare a casa, tenerli dentro casa, e invece è tutto più facile anche con questi nuovi strumenti. Naturalmente l'obiettivo del governo che modifica queste soglie non è quello di garantire maggior sicurezza ai pensionati, piuttosto rendere tracciabili tutti i movimenti di denaro. Poi su questi ed altri aspetti con il presidente Mastrapasqua torneremo. Adesso vorrei farvi però chiacchierare di nuovo con il nostro esperto di stamattina, Nicola Forte, il nostro consulente tributario, perché alcuni ascoltatori Forte ci chiedono: ma allora mi dite o no, non abbiamo capito, ce lo chiede Marco, già da adesso non si può più ritirare la pensione in contanti e bisogna appoggiare la pensione su un conto corrente? No, intanto bisogna individuare la soglia, eventualmente si parte in questo caso da gennaio, Forte. Innanzitutto dovremo vedere cosa stabilirà la legge di conversione, perché appunto la materia è in itinere. Certo, a oggi la norma è in vigore, però un aspetto secondo me che va evidenziato, che non ho visto sufficientemente sottolineato, è che questa disposizione ovviamente assolve a delle finalità diverse, no? Poi ne parleremo ancora con il presidente Mastrapasqua circa la finalità di, oltre che di sicurezza, di ridurre i costi della pubblica amministrazione. Allora, mentre la soglia dei 1000 euro è finalizzata a combattere l'antiriciclaggio, l'evasione, e lì a oggi abbiamo una specifica sanzione applicabile per chi effettua un pagamento in contanti oltre la soglia, cioè una sanzione variabile dall'1 al 40% con una serie di meccanismi che poi consentono di ridurre anche questa sanzione. Qui dal testo del decreto Monti io non ho individuato espressamente una sanzione amministrativa, pecuniaria. Ovviamente l'INPS, così come la pubblica amministrazione, sarà obbligata ed è obbligata a rispettare la disposizione, ma non essendoci un'espressa sanzione, ed essendo, lo ripeto, una materia in itinere, nel senso che la soglia probabilmente sarà aumentata, io mi attendo anche un periodo tra virgolette di assestamento, di transitorio, e quindi la possibilità piano piano di slittare al 1 gennaio. Anche perché chiaramente per tutti i soggetti che non si vogliono assolutamente bancarizzare, e adesso questo è un punto che ho chiesto al presidente dell'INPS, bisognerà fare appunto una valutazione molto concreta di quali strumenti potranno essere considerati più idonei per transitare appunto su la loro pensione. Forte, c'è questa discussione in questo momento in corso con il sistema bancario italiano e anche con le poste italiane, appunto tutti i soggetti si sono detti disponibili per esempio a studiare delle modalità di conto corrente a costo bassissimo, se non addirittura azzerato. Per quello che riguarda invece l'eventualità di istituire carte di pagamento, carte prepagate, lì invece la possibilità di istituire questi strumenti a costo completamente azzerato sarebbe un po' più difficoltoso, come ha detto nei giorni scorsi anche il presidente dell'ABI Mussari, perché poi alla fine della fiera poi possiamo bastonare il sistema bancario quanto vogliamo, ma alla fine anche emettere, far circolare queste carte di pagamento per il sistema bancario è un costo, per cui in qualche maniera loro devono rientrare, anche fosse minimo. Secondo me un'operazione a costo zero dalla banca verso il pensionato la vedo un po' difficile. Lei che dice? Direi di sì, diciamo, nel senso che poi alla fine il problema è comprendere a chi rimane in mano il cerino, nel senso che da una parte ovviamente abbiamo una serie di disposizioni che tendono a ridurre i costi della gestione del contante, quindi dei sistemi di sicurezza, però poi chi mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi, come giustamente lei ricordava, carte di credito o altri strumenti, ha anche questo dei costi di gestione, quindi per quanto questi oneri possono essere ridotti, difficile che vengano azzerati del tutto, anche se però in realtà per il pagamento dei trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, devo ricordare che la norma, e quindi questa è una disposizione di legge, prevede espressamente i costi bancari zero, quindi l'azzeramento integrale. nel senso che la norma stessa dice sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo e per tali rapporti alle banche è fatto divieto per le operazioni di accredito di addebitare alcun costo. Stiamo parlando però, ripeto, di trattamenti pensionistici minimi. Assegni e pensioni. Lo so, forte, qualche anno fa anche le surroghe dei mutui si sarebbero dovute fare completamente a costo zero, poi invece, come dire, tanti costi accessori, poi per carità le possiamo anche considerare ragionevoli per le banche, sono venuti fuori, quindi anche qui ci aspettiamo, ripeto, magari anche 20 centesimi, 50 centesimi su ogni singolo strumento di pagamento, ma io la vedo molto difficile che si vada verso un regime di costi completamente azzerati, però seguiremo con passione questo dibattito. Sentiamo invece come la pensa il presidente dell'INPS a questo proposito, Mastra Pasqua. Stamattina al nostro microfono addirittura ha voluto fare un appello agli intermediari, banche e poste, perché promuovano prodotti capaci di andare incontro a quella parte di popolazione assolutamente non bancarizzata. Sentiamolo. È chiaro che negli obiettivi del governo ci sono obiettivi di minore circolazione di contanti per quanto riguarda proprio tutti quanti i cittadini e se la soglia poi rimarrà 500 o quella che dovesse essere, evitare che proprio sia la pubblica amministrazione per prima a effettuare pagamenti in contanti e quindi ad alimentare un giro di denaro. Sono provvedimenti che noi abbiamo un utilizzo per esempio di carte di credito rispetto al resto dell'Europa bassissimo, quindi non siamo ancora, diciamo, evoluti da questo punto di vista dai pagamenti elettronici o da strumenti innovativi e quindi ecco, il governo ha ritenuto attraverso queste norme in approvazione alla Camera di intervenire, ecco, anche nelle abitudini ma per porci comunque al cospetto dell'Europa in una misura, ecco, non così svantaggiata rispetto a quella in cui siamo oggi. C'è però una larga fetta di popolazione anziana che non ci pensa neanche lontanamente a bancarizzarsi, quindi ad aprire una relazione con un intermediario finanziario appunto per l'erogazione della pensione. Ma sì, questo è ovviamente poi la scelta dei cittadini rimarrà quella più importante, vedremo anche come sarà convertito il decreto da parte del Parlamento. C'è però da fare anche un appello agli intermediari, perché è chiaro che nel momento in cui non stanno parlando di aziende ma parlano di cittadini, di pensioni basse, mi aspetto che le poste, le banche, il sistema bancario inventino o comunque possano promuovere diciamo, prodotti che siano più, non dico competitivi, addirittura direi gratuiti per tutta una popolazione che fino ad oggi non ha mai avuto rapporti con il mondo creditizio. Lei lo vede concretamente possibile un mondo in cui la banca non si fa pagare nulla per erogare un servizio, anche se ha questa finalità così? Passiamo questo termine nobile? Diciamo che la banca può avere, non voglio parlare di interessi diversi perché ovviamente ogni interesse presuppone, ecco, un tornaconto, però può anche svolgere non tutti i servizi per avere una remunerazione, ma può anche svolgere qualche ruolo sociale che comunque servono per la collettività. Allora, a proposito di queste pensioni, allora andiamo a sentire intanto i nostri ascoltatori, siete tanti in lista, in attesa, in tanti che ci state scrivendo, guardate, per tutti coloro che non riusciremo ad accontentare questa mattina con una risposta in diretta, sappiate che Nicola Forti mi aiuta sempre moltissimo a rispondere a tutti poi in privato, per cui se non abbiamo l'opportunità di sentirvi, scriveteci a salvadanaio@radio24.it e vi risponderemo successivamente. Daniela da Pavia, buongiorno, mi scusi, so che l'ho fatta aspettare moltissimo, buongiorno. Grazie, buongiorno. Il mio quesito è questo. Mio suocero ha una badante che possiede esclusivamente un libretto postale nominativo, quindi noi l'abbiamo sempre pagata in contanti, poi la badante provvedeva a versare il contante all'ufficio postale. Ci hanno detto alla posta che non è possibile effettuare il pagamento con bancomat o carta di credito. Per cui noi al momento appunto siamo impossibilitati a versare lo stipendio della badante non potendo appunto versare. Allora sentiamo un po', Daniela, come la possiamo aiutare. Allora, Forte, quali sono le alternative che Daniela ha rispetto alla modalità che ha utilizzato fino a questo momento, visto che praticamente la badante ha solamente questo libretto d'appoggio? Diventa difficile, nel senso che vabbè, la certezza è che non è possibile superare la soglia e quindi non è possibile fare un trasferimento di denaro contante. Questo è proprio il classico caso in cui dovremmo indurre la badante o aprire un conto corrente facendo appunto poi un bonifico, un assegno non trasferibile. Perché diversamente si va a violare la disposizione. Purtroppo la norma ingabbia queste situazioni, quindi se non troviamo gli strumenti tecnici, e nel caso di specie mi sembra di comprendere che la Posta abbia dato assenso negativo per far transitare questa somma direttamente, siamo in difficoltà. Non possiamo, Daniela, puoi mettere un assegno con la clausola di non trasferibilità? Com'è? Un assegno con la clausola di non trasferibilità, Daniele, potrebbe emetterlo eventualmente e consegnare questo strumento alla badante, che a sua volta lo può versare sul libretto postale? Sì, sicuramente nel momento in cui l'assegno con clausola non trasferibilità viene accettato in deposito, cioè non ci sono problemi per far transitare sul libretto postale, nessun problema. Questa è una possibilità, ripeto, a condizione che la posta, l'ufficio postale non faccia... non ponga difficoltà nel transito dell'assegno. Mm-hmm. Però lo strumento dell'assegno con clausola non trasferibilità è uno strumento assolutamente idoneo, perché spesso si equivoca quando si pensa a strumenti tracciati, immediatamente si ragiona su bancomat, carte di credito, bonifico, mentre il classico vecchio assegno, che io dico sempre dobbiamo tra virgolette rispolverare, sì, è vero, è stato proprio molto abbandonato, però adesso... rivive una seconda giovinezza. L'importante è che abbia i criteri corretti per circolare. Salva Danaio. Continuano a scriverci ancora in tanti ascoltatori a salvadanaio@radio24.it che ci chiedono, sulla base delle nuove disposizioni antiriciclaggio che hanno abbassato a 1000 euro appunto la soglia massima tollerabile dallo Stato per effettuare transazioni in contanti, come ci si deve comportare sia per lo stipendio della badante, come l'ascoltatrice poco fa ci ha raccontato, ma anche per esempio le questioni legate al versamento di cauzioni per affitti. Adesso andremo a parlarne anche di questo, volevo però sentire anche un paio di ascoltatori che stanno aspettando da un bel po'. Giuseppe da Savona, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda era questa, è semplice: ma se io vado dal dentista e spendo 1.600 euro, giusto? Con la tracciabilità io dovrei pagare o con assegno o con carta di credito, anche un bonifico, bancario. Ma siccome io andando dal mio dentista, perché comunque sia, poi dopo nasce il rapporto di fiducia, gli dico guarda, te ne do in 3-4 volte a nero, io prelevo 300 euro dal banco, ma vabbè. Allora Giuseppe, però io mi auguro che a fronte di questa sua iniziativa ci sia comunque un dentista che rilascia una fattura regolare rispetto alla prestazione complessiva fatta, oppure le rilascia ogni volta una fattura diversa per ogni lavoro. Mi rilascerà la fattura complessiva, appunto, complessiva, però a fronte di quella fattura non ci sarà una transazione regolare pari. Aspetti lì Giuseppe che sento Nicola Forte, se ho detto una baggianata, Forte. No, assolutamente, perché abbiamo ad esempio una fattura di 2000 euro risulta pagata per 1.400-1.500, cioè c'è un differenziale. Forse il problema più interessante che si pone, e colgo l'occasione del quesito dell'ascoltatore per fornire un chiarimento, il problema che si pone più che altro è del cosiddetto tra virgolette pagamento frazionato, perché specialmente per certe tipologie di cure, supponiamo le cure ad esempio ortodontiche, no, per i bambini minori che hanno una lunga durata, è possibile che il pagamento venga spalmato in più soluzioni. Allora qui forse può porsi il problema: devo andare a considerare il valore complessivo dell'operazione o posso pagare delle singole tranche inferiori ai 1000 euro e quindi il mio comportamento è regolare? L'importante è che come la manovra poi i saldi risultino invariati, Forte. Certo, assolutamente, certo. Ma diciamo qui è stato chiarito che alcune, chiamiamole rateizzazioni di pagamenti, diciamo noi siamo abituati a ragionare in termini di rateizzazione o vendite a rate solo quando compriamo beni, ma in realtà anche quando acquistiamo servizi professionali di lunga durata, può essere nella prassi dirla il rapporto fiduciario con un professionista fare un pagamento in piccole tranche, diciamo mano a mano che le cure vanno avanti, e quindi diciamo che un comportamento attraverso il quale si effettua un pagamento in più soluzioni sotto soglia è sicuramente un comportamento corretto, perché non è finalizzato a eludere il limite, è nella normalità delle cose che si, possa che si rateizzi certo, certi pagamenti. Benissimo, sentiamo Ivan da Mantova. Ivan, buongiorno, perché qua effettivamente noi parliamo sempre un po' di relazioni individuali, di noi con un negozio, di noi con il dentista, di noi con la badante. In realtà ci sono anche molte aziende che in questi giorni stanno affrontando il problema, perché naturalmente ci sono anche degli stipendi che valgono e gravitano intorno a queste soglie, per le quali adesso ovviamente per versarli le aziende devono cambiare comportamento se fino ad ora hanno versato in contanti. Ivan, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda penso di aver già ricevuto la risposta, comunque questa: io ricevo uno stipendio di poco superiore ai 1.000 euro e quindi penso proprio di dover aprire un conto corrente. Oppure, lei non lo ha mai caso, avuto Ivan? Non no, aveva? Non ce l'ha? No. In questo caso non è possibile, cioè su uno stipendio che è 1.100 euro, se io lo ricevo in due tranche cosa cambia? Questa Ivan, domanda banale, chiaramente dovrò aprire il conto corrente a questo punto. No, il problema, la questione è che comunque l'azienda risulta che paga, in busta paga, una determinata cifra che è superiore ai 1.000 euro, pertanto voglio vedere come possa giustificare il fatto che versa ad un dipendente uno stipendio in due tranche forte. Che cosa dice? Il comportamento è sicuramente irregolare, perché non è nella prassi, nelle regole diciamo che normalmente si seguono il pagamento di uno stipendio in più soluzioni. Si può verificarsi, è una mera eccezione, ma solitamente ovviamente lo stipendio viene pagato in un'unica soluzione. Tra le altre cose, l'azienda... E poi voglio sollevare un'altra cosa su questo, sì, mi dica. Nel caso specifico l'azienda... diciamo è a forte rischio di un controllo, perché l'eventuale professionista, il tenutario delle scritture contabili, che nell'ambito dell'attività ordinariamente svolta, cioè nei suoi compiti di servizio, riscontra che l'azienda effettua un pagamento in contanti o sopra la soglia o in due tranche come lo stipendio, deve constatare la violazione dentro 30 giorni, la deve segnalare al Ministero dell'Economia e Finanza e all'Agenzia delle Entrate. Se il professionista non segnala, è destinatario di un'autonoma sanzione dal 3 al 30%. Senta Forte, ma se questa azienda versasse lo stipendio a questo dipendente non più in contatti, ma a sua volta scegliesse l'assegno con la clausola di non trasferibilità, e a sua volta però questa persona deve andare a cambiare questi soldi perché ci deve vivere, ci deve mandare avanti l'amministrazione della famiglia, no? Appunto andando in banca presso il quale questo assegno è appoggiato, poi può ritirare tranquillamente tutto l'ammontare dello stipendio oltre 1.000 euro? Il problema non è tanto di antiriciclaggio, nel senso che poi a questo punto non sta facendo altro che monetizzare una somma, quindi quando il soggetto ha in mano il titolo, l'assegno, ha già del denaro, lo sta semplicemente cambiando, trasformando, quindi non sta facendo il trasferimento a un altro soggetto. Il problema però è più di tipo bancario, perché le banche solitamente oppongono delle resistenze in questa operazione che viene tecnicamente denominata cambio assegno, soprattutto se l'assegno è bancario. Forse se l'assegno è circolare, e probabilmente la banca oppone meno resistenze, però a rigore il comportamento non è scorretto. Allora, cambio l'assegno. Mi rimane un'ultima opportunità di domanda da fare Enzo da Reggio Emilia, se non le dispiace la faccio io perché abbiamo tempi tiratissimi. La sua domanda è bellissima e se proprio vuole saperlo me la sono fatta anch'io ieri sera che ero fuori in pizzeria con dei miei amici. Enzo ha un ristorante, lui fa un menù fisso per 30 persone, ognuno naturalmente tira fuori 30 euro per sé, poi il conto diventa unico, Nicola Forte, quindi andrà a superare, ammettiamo, i 1.000 euro se le persone sono tante. Come si deve comportare? Deve rilasciare magari un singolo scontrino ad ogni convitato a questa cena, Enzo? No, sotto il profilo fiscale il ristorante rilascerà una ricevuta fiscale, a quel punto il pagamento, certo, qui il discorso che è una cosa è l'operazione tra virgolette di raccolta tra i singoli soggetti e un'altra cosa è l'atto materiale attraverso il quale interviene il pagamento. Diciamo che se si se si superano i 1000 euro, certo può sorgere il problema, perché come giustamente dicevamo, se la ricevuta fiscale è unica e poi il pagamento è unico, infatti dovrei... se c'è la guardia di finanza fuori, non vorrei che gli va a contestare anche il fatto che banalmente queste 30 persone che erano a tavola assieme, insomma, giustamente hanno raccolto il denaro contante per fare un unico pagamento. Enzo, però credo che ci abbia sollevato una questione che andremo ad approfondire adesso con Nicola Forte. Grazie Forte, alla prossima puntata, ho idea che ci risentiamo presto, e intanto buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Salva Danaio.